Sí. Stile italiano è l'italiano ostile. Kira è questione di DNA, da Desolandia man. Cara Italia. Ho un sentimento tormentoso, geloso a metà. Vale su tutto la mia singolarità. Fatto come nessuno che ho visto già. Digli uomo compare Deudo fra. Esisto senza la faccia sul disco. Odissi in più falsi delle inchieste sul fisco. Da noi la sfatanzia è la più vera verità. Vedo tutti al mio banco in questa fiera delle vanità imbonisco. Mercato delle marchette, veline su brette. Dacci un paio di tette, poi ne discutiamo. Cibo buono, buono il vino e quasi passa il fano. Appena passa questa sbronza tocca che migri. Appena passa un'altra stronza tocca che votiamo. La stampa monta il caso su chi monta l'ano. A noi non l'hanno dato. Adesso indaghiamo su chi fa servizi d'escort, di scorta o di mano. È questo che fa l'italiano. Stile italiano è l'italiano stile. Lo stile italiano è l'italiano stile. Lo stile italiano è l'italiano stile. Lo stile italiano è l'italiano stile. Lo stile italiano è l'italiano stile. Lo stile italiano è l'italiano stile. Lo stile italiano è stile. Giampi il pappone, Giampi ieri l'alluvione. Da Dario Lario, leader all'opposizione. Tanto di Dario non ricordi neanche il nome. Gli altri pidimone, evoluzione dentro un cartone. Politica arcore, Grazioli, Mucache. Transfer, Marrazzo, Andazzo, aria da prete. Scudo fiscale, arma la tele, le cavalle, i frac. Diventa nero col flow e il premier è Tupac. È l'Italia, ha il dinamismo di un cane al guinzaglio. Stile balla, vende culture, cibo indietro, tiene paglia. È un treno che deraglia, è uno yacht che si incaglia. Io passo leggero losco imboscato, tutto a posto a lato, questo posto è malato e viziato. C'è diffidenza per chi non è diffidato. Alla reggenza regge chi si è cautelato, ricattato è ricattabile. Regola d'arte applicabile, livello vita stabile. Filosofia spigiola, lo leggi in un fumetto, in un rumore come Croce Massimo non benedetto. L'italiano stile italiano, l'italiano stile. Lo stile italiano è l'italiano. Lo stile italiano è l'italiano. Lo stile italiano è l'italiano. Lo stile italiano è l'italiano. Lo stile italiano è l'italiano. Lo stile italiano è l'italiano stile. È questo che faccio. Cara Italia. E dall'Express di Desolandia è tutto. Cripsilon, Piger, a voi studio.